Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Sei rovinato, stai infrangendo ogni giorno una parola d'ordine del politicamente corretto di sinistra. La sovietica lì, la russa, quella che c'è in fianco, è già sbiancata, si indigna, si incassa. Te lo dico, tra un po' tu resterai da solo con me. Cretinate, cretinate, cretinate. Signora Veronica, tenga duro, non si faccia intimidire e non si spaventi. Rimanga quello che è e continui con lo stile che ha. A vero, col tutto il bene che te voglio, ma va a magna patate, vai. È il weekend passato e i nostri ascoltatori, i nostri funamboli ci sono, ci sono. Patate fritte o patate lesse? No, fritte sono meglio, sono più buone. Dici fritte? Io direi fritte. Ma che pure, però. Vabbè, chi lo sa. 9-10 minuti, ci siamo, un po' in ritardo forse, ma siamo qui anche oggi in diretta su Radio 24 dopo uno splendido weekend. Dopo. Allora ti sei divertito nel fine settimana? Sì, che cosa mi sì. hai combinato, no, bella biondina? No, niente di particolare. Che hai fatto? Niente di che. Ma io devo dirti invece c'ho mi un sono un po' di febbri da gestire, insomma. Ah, influenze casalinghe, sì, ti sei. Sì, vabbè. Sì, quelle devo dire anche io, anche su questo fronte, però devo anche dirti che ieri ho fatto una giornata bella perché sono stata a Benevento a vedere una mise en espace di un poeta che in realtà viene dalle zone della Bergamasca ma si è trasferito giù al sud e ha fatto questa performance che aveva dei momenti teatrali ma era anche un'installazione d'arte contemporanea sul riscatto. Come si chiamerà questo? Sul senso... Brignoli. Conosci, mai letto? Sì, sì. No, mai letto. Questo Brignoli praticamente racconta il riscatto sociale, no? È la storia degli ultimi che finalmente riescono a sovvertire l'ordine costituito e riescono a sconfiggere i primi. E lo fanno come? Mediante colui che è meno sospettabile, colui che è in una posizione minore. Ragazzi, stanno girando già dei viraloni. Ce n'è uno stupendo. C'è una foto della torsione di Brignoli che sembrava Van Basten ai bei tempi. E vi ricordate Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, quando in Mediterraneo segna di testa in tuffo il gol sulla spiaggia? Ecco, hanno messo un fotomontaggio, è uguale. Devo tre uomini e una gamba era. Devo dirti che è stato molto bello quello che ho visto ieri e penso anche che il Mediterraneo non è Aldo Giovanni Giacomo. Infatti. Il Milan, no, decisamente no. Il Milan comincia ad avere veramente dei meriti in questo senso perché sta aiutando tanti. Ma signori, tanti. Ma io dico, allora, abbiamo questo. Assistito ieri al primo punto storico in Serie A del Benevento. E con tutto grazie gol a Milan. Del portiere, una cosa che si vede raramente, noi potremo dire tra 40 anni, noi del Milan c'eravamo. Eravamo lì. E l'abbiamo preso. Noi abbiamo contribuito a questo momento storico. Guarda, storico del calcio. Noi per c'eravamo. Una volta io sono d'accordo con te. E voi della Lazio che stavate volta facendo? Voi c'eravate. Noi stavamo vincendo. C'avevo papà contentone ieri sera. Sì, infatti, ma io poi ti ringrazio appunto per fare questa burattinata di regime che fai ogni lunedì. Ieri hai dovuto pure chiamare tuo papà per prendere appunti. No, è peggio. Sì. Mi ha chiamato lui dicendomi: ma è certo che il povero Milan sta veramente combinato male. Questo è stato l'esordio. Ho detto che è successo stavolta? Ho detto stavolta è lunga. Dice, prendi la penna. Prendi la penna. Gol del portiere al 95esimo. Allora, Benevento. Se ti dico che il Benevento 14 partite le ha perse tutte e 14, il primo pareggio l'ha fatto col Milan, ha segnato il portiere, ci credi? Ho detto aspetta, prendo la penna. Aspetta, prendo la penna. Cominciamo da Brignoli. Allora, mi ha spiegato, si chiama Brignoli. Ragazzi, sta facendo il giro del mondo questo gol. Comunque, alle 9:13 minuti, come vedete, lo spirito mio non è scalfito per nulla, perché vinceremo a mani basse l'Europa League. Per questo Lorenzo Nespoli farà il suo spogliarello, ma come promesso. Ma perché continui a metterti nella condizione di essere poi e l'anno prossimo beffato. ricordate una bella combo scudetto Champions League. No, ti questo abbiamo è detto che questo sei è fatto. Diffidato dall'usare la parola combo. Alle 9:14 minuti i funamboli partono, non da questo. Chiamateci all'800 24 00 24, dobbiamo partire subito per raccontare la prima storia di oggi. Allora, non chiamateci su Brignoli, per favore, perché non siamo un programma di calcio. Volevo dire agli amici ascoltatori, se volete dire qualcosa sulla performance fatta ieri da poeta Brignoli voi, a Benevento. Erano in tanti con me ieri, eh? Siamo stati moltissimi ad ascoltare Brignoli sul riscatto degli ultimi. Devo su dire. Quelli che credevano di essere i primi e all'improvviso hanno iniziano questo percorso di recessione che li porta indietro e poi ancora indietro e poi ancora indietro. E noi vi aspettiamo a braccia aperte. C'è da dire che c'è un altro viralone che gira tranquillo, è inutile che me lo segnalate, mi è già arrivato da mio fratello che è juventino questa mattina presto. È un video girato sugli spalti dai tifosi del Benevento. Facciamo un video prima del gol e poi succede veramente il gol e succede il finimondo, ecco, di esultanza. C'è uno che poco prima del gol dice: "Mio Brignoli!" E segna Brignoli. Va bene, dai, parliamo di cose ben più serie. Meno male che l'avete pagato tanto, Donnarumma, che adesso state qui. I primi funamboli di oggi sono due ospiti, sono un avvocato e una donna originaria dell'Ecuador, perché vogliamo raccontare questa storia raccontata dal Corriere della Sera, da Luigi Ferrarella, che ci ha molto colpito. Sì. E cioè una sentenza che dà ragione a diverse mamme e diverse famiglie straniere per il bonus che è stato concesso, il bonus mamma domani, così viene definito, cioè i soldi che un anno fa la legge 232 aveva introdotto a favore di tutte le mamme al settimo mese di gravidanza. Ma poi dopo l'INPS aveva messo una circolare dicendo: si escludono le mamme straniere che non hanno il permesso di soggiorno di lungo periodo. C'era Veronica... già stato un precedente in questo senso, nel senso che l'INPS sostiene di essersi attenuto a quelle che erano le regole valide per il bonus bebè del 2014, esatto, in cui già venivano escluse tutte le straniere che non avevano un permesso di soggiorno lungo. Sì. Però ci sono queste mamme, queste famiglie, che coadiuvate da un avvocato che è Alberto Guariso. Avvocato, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno. Insieme alla CGIL di Bergamo ha aiutato queste famiglie. Queste famiglie hanno vinto la causa. Tra queste famiglie c'è anche una donna con noi, è Joanna Saavedra, spero di aver pronunciato bene il cognome, originaria dell'Ecuador. Buongiorno signora. Buongiorno. E grazie di essere qui. Quattro figli, tutti nati in Italia, tra l'altro, una delle mamme ricorrenti. Allora, da chi vogliamo partire? Signora, vogliamo partire da lei. Ci dica intanto questo cosa comporta dal punto di vista economico, cioè adesso lo Stato italiano quanto le dovrebbe dare? Buongiorno, guardi, per quanto riguarda il bonus bebè, l'importo dovrebbe essere 800 euro, ma una volta prima del parto oppure dopo il parto, facendo una tantum, una volta sola, sì. Una tantum, infatti. Perché lei ha deciso di fare ricorso? Cioè, come è nata questa idea di fare ricorso, un ricorso vinto peraltro? Un ricorso vinto, sì, infatti, prima di tutto perché comunque sia, essendo sostenuta dalla CGIL, comunque in qualche senso anche tramite gli avvocati, ci siamo sentiti un po' più protetti, più informati più che altro, perché tante cose a volte per mancanza di informazione non si fanno. Certo. E comunque questa legge era anche a livello europeo, che solo da qua in Italia purtroppo non veniva esclusa dalle persone che non avessero la carta di soggiorno. Signora, lei quanti anni erano già, da quanto tempo era già in Italia quando... No, io sono in Italia da 14 anni. Ah, tantissimo tempo. Io sono sì. in Italia, sì, sono da 14 anni, solo che la carta di soggiorno non ce l'ho ancora, perché sono in fase di direttamente cittadinanza. Ed è questo, cioè, il motivo per cui l'INPS aveva messo questa circolare di precisazione, sì, a dire siete escluse da questo. Che c'è, sì, anche da dire poi che i permessi di lunga durata cosiddetti necessitano dei tempi lunghissimi ed è abbastanza complicato averli, quindi questa è una delle tematiche chiaramente contraddittorie, perché altrimenti uno dice vabbè, fai il permesso e il problema si risolve, invece ci sono tutta, sì, una serie di vincoli che persone che, sì, lavorano già qui, sì, da tempo, che abitativi, no, esattamente. Allora, ci aiuta a capire l'avvocato Guariso qualcosa di più anche per ampliare la questione, perché questa sentenza è del giudice di Bergamo, però vale per 24 famiglie oppure può valere per tutti? Ci aiuti a capire, avvocato Guariso. Sì, questa sentenza si inserisce in una situazione che è la seguente, cioè l'ordinamento italiano ormai è orientato a dare le prestazioni di assistenza, oltre agli italiani e ai cittadini europei, solo agli stranieri con permesso di lungo periodo. In realtà dal 2011, poi è entrato in vigore a Natale del 2013, un regalo di Natale, è in vigore una direttiva europea che dice tutti coloro che hanno un permesso di soggiorno che consente di lavorare, cioè anche i permessi ordinari per lavoro, per famiglia o per attesa occupazione, hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani e con i cittadini del paese. Quindi non ospitante. Più permesso di lungo periodo, ma non più qualsiasi permesso. Questa idea nasce dal fatto che chi circola in Europa inserendosi nel mercato del lavoro o effettivamente perché lavora o potenzialmente perché comunque può lavorare, può cercare un lavoro, questo è cosa buona che sia trattato in maniera uguale, perché questo favorisce non solo la crescita dei valori di solidarietà che vengono richiamati in questa direttiva, che sono quelli fondanti dell'Europa, ma favorisce anche lo sviluppo economico, perché ovviamente favorisce la mobilità delle persone, certo, favorisce che gli immigrati si collochino là dove c'è possibilità di inserimento nel mercato del lavoro e quindi contribuisce anche alla crescita economica dell'Europa. Questo è il principio che c'è e che ci viene imposto. Purtroppo l'Italia continua a scegliere diversamente, con anche qualche irrazionalità, perché per esempio questo bonus era garantito senza limiti di reddito, il che vuol dire che veniva dato alle famiglie ricche e non ai poveri. Io le volevo chiedere questo, infatti, avvocato, siccome in realtà chiaramente il ricorso poi è stato fatto nei confronti dell'INPS, perché poi è l'INPS a derogare il bonus, però in realtà l'INPS stessa ha replicato che il problema sono state le direttive mandate dal governo, perché la legge è stata scritta dal governo, e quindi c'è una perplessità sul modo in cui è stata scritta questa legge, sul fatto che siano sempre scritte, che sia una delle ennesime leggi scritte un po' a caso, per così dire. Certo, a mio avviso è stato scritto molto a caso, perché qui addirittura nemmeno la legge metteva delle limitazioni e non metteva, ripeto, nemmeno limitazioni di reddito. La stessa vicenda era stata percorsa esattamente nello stesso modo per il bonus bebè, che è entrato in vigore nel 2015, del quale adesso si discute, no, a proposito della proroga in sede di nuova finanziaria. Anche lì c'era stato lo stesso problema, c'erano già state numerosissime sentenze che avevano riconosciuto l'applicazione della direttiva e quindi il diritto a sto bonus bebè, che è quello triennale, cioè che arriva fino ai 3 anni di vita del bambino, anche a chi ha un permesso per lavoro. E la stessa questione c'era stata per il premio alle famiglie numerose, sì, cioè quelle però, che hanno almeno 3 figli. Sì. Lei, avvocato, ci deve far capire un punto fondamentale, perché allora, intanto, a quelli che criticano eccetera, non è una questione di essere pro o contro immigrazione, cioè c'è un magistrato che ha stabilito un principio, che piaccia o no, però, avvocato Guariso, questo, se si dovesse applicare, ci sarà una stima di a quante persone potrebbe essere esteso questo bonus, vista questa sentenza? Quanto potrebbe venire a costare in più alle casse dello Stato tutto ciò? C'è un calcolo che si può fare? No, ecco, però il problema dei costi dipende dalla misura del beneficio, cioè ovviamente se c'è un principio di uguaglianza che è imposto dall'Unione Europea, appunto, se venisse imposto, cioè, perché adesso la sentenza è per 24 persone, ma quante, certo, sono potenzialmente, certo, quelle che potrebbero ricorrere? Ovviamente, certo, bisognerebbe, giustizia una domanda, però bisognerebbe sapere quanti stranieri, certo, privi del permesso di lungo periodo hanno partorito nel 2017, perché ovviamente lo dovrebbe sapere l'INPS, il governo lo potrebbe sapere, però c'è chiaramente se c'è un principio di uguaglianza bisogna tenerne conto, ripeto, imposto da una legislazione europea, bisogna tenerne conto quando si fanno le norme e semmai si può modulare il beneficio, come tra l'altro era previsto nel bonus bebè, quello però triennale. In termini di numeri, se ci costa di più, vabbè, lo riduciamo l'importo. Questo avvocato, è un problema. In termini di numeri, mi corregga se sbaglio, risulta che sia il 40% delle mamme straniere che ne sono rimaste fuori. Il 40% è la percentuale di stranieri che non hanno il permesso, esatto, di lungo periodo. Bisogna capire quale possibilità di accedere. Bisogna capire se hanno partorito, se hanno fatto un figlio. Certo. Sì, sono una questione, diciamo, di lo può sapere sicuramente lo Stato, lo sa, perché se uno fa un figlio. Però bisognerà vedere anche se ricorrono tutte o meno. Non è automatica, avvocato, bisogna fare comunque un ricorso. Ecco, e questo è un punto centrale, cioè l'idea che prestazioni vengano erogate sulla base del fatto se uno ha l'informazione, se conosce il sindacato, questa è un'ingiustizia clamorosa, cioè in qualunque paese ci vuole un minimo di certezza del diritto, chi ha diritto ce l'ha, chi non ha diritto non ce l'ha. Lei dice in un paese normale, a fronte a questa sentenza, lo Stato automaticamente dovrebbe andare a cercare queste persone e dire guarda che ne hai diritto, non aspettare un ricorso da parte di queste persone, questo ci sta dicendo. Ma non solo, scusi, le aggiungo che il 21 giugno di quest'anno è uscita una sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla questione, ma analoga, identica, dell'assegno per chi ha almeno 3 figli, che ha detto guardate, dovete farlo, perché quella direttiva si applica a tutte le prestazioni di questo genere, in parole povere. Allora a questo punto siamo di fronte a una sentenza che quella sia portata generale, lo Stato dovrebbe adeguarsi, andare avanti in questo modo è davvero un'ingiustizia. Voi pensate all'onere per lo Stato di tirare in ballo avvocati, cancellieri, giudici, eccetera, per una cosa che ha un finale abbastanza scontato, almeno fino a questo punto, poi non bisogna mai dire avere certezze eccessive nel mondo del diritto, però ecco, si mette in ballo tutto questo marchingegno per creare disuguaglianza secondo se a Bergamo sia, a Napoli no, una situazione oltretutto assurda. Poi mi sembra che tutti i giudici finora si siano pronunciati nei casi di ricorsi a favore dei ricorrenti, esatto, delle mamme ricorrenti, quindi è evidente che se ci si attiene alla direttiva europea, cosa che uno è obbligato a fare, quella dice la legge. Allora, per concludere, signora Ioanna, chiudiamo con lei. Lei cosa fa in Italia? Possiamo farci i fatti suoi? Sta bene? È contenta? Allora, io sono una mamma, sì, da 2 anni sono mamma a tempo pieno, perché ho lavorato sempre fino a qualche Ce ne ha 4 e sì, mamma a tempo pieno. Sì, assolutamente, sì, però non appena il bambino ha il posto all'asilo nero, io riprendo la mia vita lavorativa, perché come sempre l'ho fatto, mi piace lavorare. E che cosa fa? Io lavoro nella ristorazione, ristoranti, pasticcerie, sì. E le faranno comodo questi soldi, immagino? Sì, guardi, sì, non è, in questo tempo qua ci mancherebbe altro, 800 euro, comunque è vero che per un bambino, per il primo anno di vita ci sono tante cose, tra i pannolini o altro, vestiti, è un grande aiuto comunque da parte dello Stato. E approfitto per ringraziare la CGIL di Bergamo e la signora Annalisa Colombo, che è stata molto gentile nei confronti di tutti gli stranieri in questo caso, hanno, gli hanno stranieri supportato, perché vi hanno supportato in questo ricorso. Va bene, noi vi ringraziamo. Alberto Guariso, avvocato, esperto di diritto al lavoro, che ha seguito insieme a CGIL questo di Bergamo questa causa. La signora Ioanna Saavedra dell'Ecuador. Arrivano un po' di critiche, ci occupate sempre di immigrazione, no, non sempre, ogni tanto, visto ci occupiamo di, secondo me di ce l'hanno tutti con i giorni. Comunque. Sì, l'ascoltatrice, non è un programma di calcio non parlare di stupidaggini, vero? Basta calcio. Non ne guarda, è un consiglio che accetto subito, non ne parleremo mai più. Altri 10 minuti e diventerà che sono io che parlo di calcio. Non ne parleremo mai più. Altri 10 minuti e vedrai che sono io che ho portato l'argomento calcio nella trasmissione. Sì, esatto, nota espertona di calcio. Nota, io che proprio la domenica, lo sai, non mi alzo dal divano io. No, tra l'altro parleremo di calcio, effettivamente potremmo fare una moratoria, parleremo di calcio solo per celebrare il trionfo in Europa League del Milan a fine, verso maggio. Io maggio, direi che noi non parliamo di calcio, però questo non è esatto, noi parliamo di Milan. Noi parliamo di drammaturghi, esatto, noi parliamo e di comunque Milan, la prendiamo. È noi non parliamo di calcio perché degli altri mi sembra non si faccia mai no, menzione. No, guarda, in realtà la battuta ti era venuta benissimo, ma non nel senso degli altri, non parliamo di calcio, parliamo di Milan. È una battuta allora stupenda. Questa dice, era tutto così condensato. È perfetta così. Quest'anno non parliamo di calcio, parliamo del Milan. La parabola discendente del Milan. Va bene, dai, ci sono tanti messaggi, anche chiamate l'800240024. Dopo la pubblicità parleremo invece di bullismo. Avremo ospite una ragazza di 18enne che ne ha subito di atti di bullismo. È stata per questo chiamata anche a parlarne pubblicamente. Mi sembra una cosa giusta, cioè che ci siano dei testimonial, persone che mettono il volto e raccontino per aiutare altri ragazzi e altre ragazze nella stessa situazione a reagire, a sapere come comportarsi. Tu, Veronica, sei mai stata vittima di bullismi? No, non credo. Non particolari. No, nel senso, poi chiaramente le cose che succedono a scuola in termini lievi, sì, insomma, possono, sì, anche quelle, credo che non ci sia nessuno che ne sia stato esentato, me, prima, dire, o dopo, piccoli, più piccoli rispetto ai più grandi, però nessun episodio, insomma, degno di nota. Meno male. Allora, dopo la pubblicità rientriamo, state con noi. I funamboli. Alessandro, ormai è così, ci prendono per il culo anche quelli che non sanno che cos'è un pallone. Però che ti serve? Secondo me a quest'ora un bello caffè. Secondo me questa agevolazione è fatta per gli italiani, che purtroppo non vengono agevolati in nulla, non come gli stranieri praticamente. Non capisco perché noi dobbiamo sempre rispettare le regole e loro no. Allora, la signora evidentemente era contraria, prima gli italiani, sarà contenta dello slogan di Giorgia Meloni, immagino. Alle 9.33 minuti siamo qui, voi potete chiamarci all'800240024, invece Veronica non abbiamo dato il numero dei WhatsApp. Eccolo, hai capito qui che c'è la differenza, ti ricordi? Non è il quello WhatsApp, dove bisogna chiamare? No, box. Questo è WhatsApp, audio. Che sarà magari questo WhatsApp di voi ragazzi? Comunque... 349-238-6666. Eccoci qui, Andrea da Lucca per esempio ci ha chiamato. Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno. Eccoci. Buongiorno per modo di dire, visto la partita di ieri, sono milanista. Anche tu sei del Milan. Andrea, stringiamoci forte e teniamoci caldo. Secondo me bisogna fare un gruppo di sostegno, vi dovete incontrare ogni tanto e io vengo e vi metto un po' di allegria raccontandovi le mie gite letterarie. Andrea, eccoci. Sì. Allora, io, sì, per riattaccarmi anche a quello che ha lasciato la signora, ha detto in segreteria, io sono della parte opposta, ovvero io ho mia suocera che ha lavorato 40 anni in Italia, quindi è titolare anche di pensione minima dell'INPS, paga le tasse, per cui, cioè, naturalmente essendo reddito minimo non ha l'IRPEF. E quello che ha detto l'avvocato che è intervenuto prima della CGIL mi ha fatto rizzare i capelli, perché ho sentito che ha detto che una norma europea stabilisce che debbano avere gli stessi diritti dei cittadini italiani anche quelli titolari di un permesso. Mia suocera non ha un permesso temporaneo, ha la carta di soggiorno permanente, quella definitiva. Sì, ma voglio dire, sua suocera, adesso si sta parlando anche di persone poi che fanno figli, mi perdoni, adesso suocera non credo che sia però l'ha già fatto. No, Alessandro, però ha ragione, perché in termini di assistenza sociale che prevede la direttiva europea che abbiano tutti gli stessi diritti, perché a me coloro che lavorano qui, quello... non in maniera episodica. Era la social card, per esempio, che c'è scritto che è riservato solo ai cittadini. Infatti mia suocera non ne ha mai fatto richiesta. Però forse allora ne potrebbe fare richiesta. Forse sì, però il problema è che bisogna passare attraverso, adesso io non lo so se tecnicamente può averne diritto, deve informarsi e nel caso fare una causa come è stata fatta a Bergamo. Io credo che se vuole un'informazione può chiamare l'INCA, che è l'ente della CGIL delegata a queste cose qui. Ma sì, certo, credo che qualsiasi patronato... E glielo può chiedere, però a rigor di logica potrebbe darsi, perché appunto la direttiva europea parla di assistenza. Quindi, salutavo intanto tutta la gente. Ti vedo che ci sta facendo. sto facendo cioè, le linguacce. No? Però allora, così, alle 9.36 Genome minuti. No, ma comunque Andrea si informi sicuramente. Magari sua suocera aveva diritto alla social card. Bisogna però fare questo passaggio. Nel senso, l'automatismo magari c'è, ma attraverso un giudice che si pronuncia. Ecco, questo è il punto che sottolineava come una critica, tra l'altro, l'avvocato Guariso. Comunque, Veronica, siamo qui e dicevamo Il tema del bullismo è un tema molto molto serio, perché poi quando i nostri ragazzi e le nostre ragazze lo subiscono rischia di creare situazioni, per carità, non si arriva sempre a tragedie, talvolta atroci, altre volte per fortuna che hanno un epilogo che viene contenuto meno, diciamo, tragico, sì. Vogliamo salutare Alice Masala, che è con noi. Alice, buongiorno. Buongiorno. 18 anni, giusto? Sì, sì. Eccoci qua, di Sassari. Sì, il 25 novembre ha raccontato la sua storia davanti, tra l'altro, alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, e sapete che il 25 novembre è la giornata contro la violenza nei confronti delle donne. Però in questo caso Alice ha raccontato una storia diversa, invece, di bullismo, possiamo definirlo così? Sì, bullismo e cyberbullismo. Cyberbullismo, che spesso sono purtroppo collegati. Esatto. Vuoi raccontarci qualcosa, come è iniziata, cosa ti cosa è successo? Anche se adesso è finita, cosa che spero. Sì, completamente, adesso comunque è completamente conclusa. Per raccontarla in breve cosa successe? C'era un gruppo di ragazzi, indefinito perché ancora non so bene chi era coinvolto in questa storia, che... a quanto so, perché l'ho scoperto molti anni dopo, l'ho scoperto che la storia, tra virgolette, si era già conclusa, avevano messo delle voci in giro sul mio conto che, come si sa, passaparola vanno ad evolversi e diventare una cosa sempre più grande. Per quanto mi è stato detto, la prima voce che è stata messa in giro era il fatto che io contattavo i maschi attraverso bigliettini e messaggi, chiedendogli di fargli qualche servizio a pagamento. E questa voce è andata ad evolversi dicendo che io comunque con un ragazzo in particolare avevo fatto delle determinate cose, anche molto più spinte di quelle che all'inizio erano quelle che dicevano, e la voce conclusiva è stata che io sono rimasta incinta, quando comunque per fortuna proprio... non c'è nessuno dentro di me, non c'è mai stato, quindi... Ecco, ovviamente tu racconti, non sai bene, hai premesso, da dove è nata. Da dove siano venuti fuori, chi sia stato, niente. Non hai... Cioè, si può capire se è nell'ambito scolastico, nell'ambito delle amicizie. No, nell'ambito scolastico. Ma se, cioè, tu non hai idea se ci fosse qualcuno che ce l'aveva con te, che proprio avesse in mente, sì, di farti del male? C'erano due ragazzi in particolare che comunque mi stuzzicavano, ed erano quelli che mi insultavano anche a voce, ed erano quelli che hanno fatto iniziare il giro di insulti anche nelle chat online. E uno di questi due ragazzi era quello che loro dicevano da cui ero rimasta incinta, quindi comunque un ragazzo in particolare lo so, però non era l'unico, perché comunque era una storia che aveva coinvolto anche tutta la città. Quindi, diciamo che questo magari una persona coinvolta, chiaro, magari questo, avere un certo livello di popolarità. Questo magari verrà appurato da eventuali inchieste, non so se ce ne sono. Certo, certo. Ci interessa però capire. Non ho mai denunciato, non mi interessa, la storia è conclusa, preferisco rimanere nella mia pace adesso. Però ma ci interessa adesso... capire il messaggio, se c'è un messaggio, come penso ci sia, che tu vuoi dare ai ragazzi e alle ragazze dopo che sei stata vittima di tutto ciò. Sì. Il messaggio che io voglio dare ai ragazzi è questo, perché comunque riconosco che quando ci si trova in quella situazione si tende prima di tutto a darsi le colpe, nonostante non ce ne siano, perché io comunque colpe non ne avevo, se non il fatto che sono restata in silenzio. E poi soprattutto il consiglio che danno a tutti, che purtroppo noi vittime prendiamo come frase fatta, come convenzione, è il fatto che ci dicono parla perché i problemi pesano meno se vengono condivisi. Sembra una frase fatta e noi la prendiamo così, ed è per questo che rimaniamo in silenzio. Ma è l'unico consiglio vero che si può dare alle persone. Quindi condividere perché il problema. Beh, questo sì, ti ha aiutato. Perché mi sono accorta, sì, esatto. Perché quanto mi sono tempo ci hai messo tu a raccontare, Alice? Ho messo 5 anni. Tanto tempo. E non lo sapeva nessuno, neanche amiche? Le amiche che lo sapevano non sapevano della mia sofferenza, sapevano magari della storia, ma non di quanto io ci avessi sofferto, di quanto mi premeva questo problema. Certo che 5 anni vuol dire che è successo tantissimi nel pieno dell'adolescenza, è un'età molto delicata. Esatto, avevo 12 anni delicata quando è iniziato il tutto. Ti sei tenuta veramente un grosso peso da sola. Ma queste persone, adesso che la faccenda è venuta fuori, che se ne è parlato, qualcuno è venuto a parlare con te, a darti delle spiegazioni, a chiederti scusa? A chiedermi scusa no, però mano a mano, magari anche leggendo gli articoli o vedendo le conferenze, molte persone della mia città o solo conoscendo anche amici stretti mi dicevano: ah, adesso ho collegato, non sapevo che fossi tu la ragazza di cui si parlava. Perché, ma perché se ne parlava, se ne parlava in che termini? Cioè tutta la città dice addirittura. In quei termini, sì, alla fine. No, certo, ma no, no, non volevo sapere in maniera, non era una pruderia sapere quali termini, ma voglio dire, quando dici tutta la città, cioè Sassari comunque non è una città, un paesino, sì. Tu quando dici che tutta la città ne parlava, cosa vuol dire? Perché io comunque, quando mi capitava di uscire, perché uscivo molto spesso da sola, gli stessi bisbigli, gli stessi sguardi che vedevo a scuola li vedevo in molte piazze, come nelle molte piazze importanti di Sassari, nelle zone di ritrovo dei ragazzi, e comunque lì c'è un mix di tutta la città, anche dei paesi, quindi non era una cosa ristretta soltanto alla scuola, perché era diventato un caso praticamente. Era diventato un caso, cioè, non era neanche più una cosa dici di classe o di scuola, lo sapevano sì. dappertutto. Sì. E ti additavano in qualche modo, ti esatto. guardavano in maniera strana. Senti, possiamo sapere se in famiglia c'è stato qualche tipo di supporto? In famiglia io ho tenuto tutto nascosto e un problema diciamo che ho riscontrato è il fatto che anche i professori non hanno coinvolto la famiglia, ma perché non sembrava una cosa tanto grave per come la descrivevo io, perché comunque i professori essendo al corrente c'erano quelli che mi venivano a parlare e mi dicevano ma come stai, io ero diventata brava a dire che stavo bene, a far vedere che effettivamente stavo bene, quindi la famiglia non è stata coinvolta né da me né da parte della scuola. Ma quindi, i professori lo sapevano e non potevano far niente? Purtroppo no, non ci sono riusciti, più che altro hanno fatto alcuni tentativi, ma quando una persona si mette in testa una cosa, se non lo può fare a scuola lo fa fuori, quindi... No, mi sembra una storia abbastanza incredibile. Sì. Sentiamo, mi sembra di capire dalla tua determinazione che in qualche modo il peggio sia alle spalle, vogliamo augurarti esatto. che sia così. Esatto. Alice, perché? Dici solo una cosa, come hai trovato il coraggio di parlare? Cosa è scattato a un certo punto? È successo questo, io ero a teatro uh-huh. per una conferenza sul bullismo, appunto sul tema del bullismo e cyberbullismo, e mi aspettavo la solita pappardella, le solite cose che toccano e non toccano. Invece al posto di un unico discorso da parte di una persona che cercava comunque di aiutare, vi era stata portata anche la testimonianza di una ragazza che aveva passato le stesse identiche cose, che era uscita dall'incubo appunto raccontando le cose in famiglia, e vedere che una persona che ha passato il mio stesso incubo è riuscita a rialzarsi parlando, ho capito, ok, parlare fa veramente finire l'incubo, e io comunque, che la situazione comunque era finita, avevo ancora questo peso dentro, perché dicevo che io ora sto bene perché nessuno mi dà più fastidio, però questo peso dentro sul cuore diciamo ce l'avrò sempre, quindi come ho sentito la sua testimonianza, visto che lei parlando era riuscita a risollevarsi, ho detto bene, è arrivato il mio momento, l'ho certo. fatto anch'io, esatto. Allora Alice, beh, questo mi sembra anche il messaggio importante, hai sentito qualcuno che ha avuto la forza di parlare, tu a tua volta hai avuto la forza di parlare, inviti a fare le persone che subiscono queste cose lo stesso percorso. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi, ricordiamo Alice Masala, 18 anni, ha subito questa vicenda terribile no, di bullismo. Molto brava, e secondo me può anche essere d'aiuto, perché la sento veramente molto forte e determinata per tanti ragazzi che subiscono la stessa cosa, nel raccontare, sì. nel far venire la voglia di parlarne. Vediamo poi se qua... Michele dalla Spezia, prima del traffico. Michele, buongiorno. Buongiorno, intanto la mia solidarietà ad Alice, anche se quello di cui vado a parlare è molto più banale come discorso. Quindi tanta solidarietà ad Alice e forza Alice. Volevo soltanto mettere un po' in risalto una cosa di cui si parla sempre. Ogni volta che sento queste donne che hanno bisogno dei patronati, della CGIL, dietro a questo aspetto che ci vuole sempre un qualcheduno che ti presenta la domanda, c'è un costo. Cioè la CGIL, la UIL, tutti i patronati non fanno nulla gratis, e per rappresentarti, per ogni azione che fanno prendono dei soldi. L'ammontare dei soldi che prendono questi qui, circa 1 miliardo all'anno. Allora la domanda è questa, semplice: ma se l'INPS ha tanti dipendenti, possibile che i back office se li fanno fare dai questi patronati non sono in grado di gestire la cosa insieme, e quei soldi possono essere buttati veramente sulla povera gente? Michele, che... guardi, il tema c'è, ci fu anche la puntata di Report, cioè, i soldi ricordo, ai patronati, in questo caso voglio dire l'INPS avrebbe dovuto dare no, non dare, capisco, andare capisco contro se stessa, perché l'INPS aveva detto che non avevano diritto. Il caso lo capisco benissimo, però io dico la lente di ingrandimento a capire quanti costi occulti ci sono. Diciamo, forse non è questa la storia in cui tirar fuori la vicenda dei patronati, però sì. Tra l'altro l'INPS ci ha anche provato, qui pare che fossero stati i primi a segnalare che c'era un'anomalia in termini di direttive. Però. Comunque andiamo al traffico e poi rientriamo. I funamboli. Stavamo imitando il tuffo di Brignoli. Poi tra l'altro Manera che è pelato come Aldo di Tre uomini e una gamba, è perfetto se lo mettiamo. Niente, dopo lo facciamo. Ormai è impazzito definitivamente. Preparati Lorenzo, che facciamo un video, faremo vedere Manera Aldo Baglio che si tuffa alla Brignoli. A me ha fatto ridere, ringrazio Brignoli perché mi ha fatto ridere col tuffo di testa. E noi siamo milanisti, vedi, noi c'eravamo quel giorno 3 dicembre 2017. Io mi sono divertito, ormai tanto lo so che la stagione del Milan è così, chi se ne frega. Ringrazio Brignoli che invece mi ha dato un momento di buon umore con quel tuffo scomposto, sembrava un tuffo da disperato, l'ultima possibilità della vita, si è lanciato, avrebbe travolto chiunque. E invece ha fatto gol. Vabbè, allora, io stamattina sono stato preso a calci in metropolitana. Dai, su una scala mobile. Perché ti hanno dentro picchiato? Il vagone c'era una bambina cinese sul passeggino che scalciava come un cavallo. Era tutto pieno il vagone, ero proprio davanti a questa bambina cinese che scalciava e continuava a prendermi a calci per 4 fermate, e lo sapevo che i cinesi prima o poi avrebbero smesso di sorridere per mostrare il loro vero volto aggressivo e imperialista. Ci conquisteranno a calci i neonati. Con chi potevano cominciare se non con te, certo. Del resto, no? Ma guarda che i bambini poi trovano una godura estrema a dare questi calcetti, vedere se l'adulto reagisce. Magari fossero calcetti, erano proprio dei gran calcioni sullo stinco, maledetta bambina cinese. Va bene, dai. Okay. Allora, no, stavate parlando di bullismo. Eccoci qui. E dagli effetti che può avere il bullismo. Io credo che di solito un bambino bullo derivi anche da un genitore bullo. Non sempre, ma spesso il bullismo è una caratteristica che si eredita geneticamente. Perciò, insomma, anche un po' per sdrammatizzare e dare un servizio agli utenti di Radio 24, vorrei fare alcuni esempi di comportamenti di adulti che vanno nella direzione del bullismo. Per esempio, lo si può riscontrare un comportamento da bullo quando il padre, addirittura prima che il figlio nasca, accompagna la futura madre a far l'ecografia del feto. Se il nascituro è maschio, spesso il padre bullo scambia il cordone ombelicale per il pisello del figlio, come se il figlio fosse superdotato, e poi pieno di autocompiacimento dice: mio figlio ha preso da me. Fino a quando qualcuno gli fa notare che è il cordone ombelicale, ma il padre bullo insiste: no. Il feto, che è ancora nel pancione della mamma, sente, percepisce e comincia ad autocompiacersi, a mettere le radici del bullismo. Altro comportamento da bullo lo si può riscontrare in molte salumerie d'Italia, quando il cliente va, chiede un etto di prosciutto e il salumiere bullo ne mette 2 etti e mezzo, sapendo benissimo che è molto di più dall'etto richiesto. Poi chiede con arroganza: cosa faccio, lascio? Ben sapendo che in quel momento lui è in posizione dominante, perché il prosciutto è già tagliato, il cliente, anche per non far la figura del pidocchio, non chiederà mai di togliere l'eccedenza. Ma il salumiere bullo, affetto da affettatricismo acuto, cioè da utilizzo eccessivo dell'affettatrice, è uno degli esempi più dannosi per il minore che si trova casualmente in salumeria. Poi c'è il bullo da bar, anzi il bullo d'aperitivo. È quello che, quando il barista mette sul bancone gli stuzzichini, si piazza proprio davanti al bancone, monopolizza gli stuzzichini, inghiottendo senza soluzione e continuità quelli più ghiotti e lasciando agli altri solo brandelli di patatine spezzate, contaminate da virus e batteri di ogni tipo. Questo tipo di bullo non si fa nessuno scrupolo, soprattutto se è anziano. Il bullo anziano da bar, che ha nel cibo una delle sue principali gratificazioni, utilizzando lo schermo dell'età e confidando nell'educazione altrui, tocca tutti gli stuzzichini, li annusa, se non li gradisce li rimette a posto. Mastica rumorosamente, sorseggiando vino rosso, lamentandosi dei giovani che invece sono confinati nell'angolo più remoto del bancone con le patatine spezzate. L'ultimo tipo di bullo di cui voglio parlare è il bullo da studio odontoiatrico. È il dentista che mentre ti sta devitalizzando un dente, tu sei lì con la bocca aperta, terrorizzato dal trapano, con in bocca la diga, l'aspirasaliva e pezzi di cotone, si fa bello con l'assistente alla poltrona. Tu stai soffrendo, lui utilizza il tuo dolore e il tuo terrore per portarsi a letto l'assistente alla poltrona, ride, fa battute, si vanta delle sue estrazioni precedenti. Oppure se il cliente è una donna, ci prova direttamente con lei e non capisci che in quel momento al cliente delle battute non gliene frega niente, vorrebbe solo finire al più presto. E quando poi ti libera la bocca non puoi nemmeno insultarlo, perché a causa dell'anestesia hai perso anche la possibilità di parlare normalmente, la parola è abbastanza limitata, parli in un modo che non è del tutto comprensibile con queste labbra che ti sembrano enormi. Ecco, questi sono alcuni dei comportamenti che noi adulti dovremmo evitare se non vogliamo che i nostri figli a loro volta diventino in futuro grandi bulli. Zoom, zoom, zoom. Beh, è bello, questo dovresti ogni giorno darci altri comportamenti da bulli, un po' come il corso per extracomunità. Tra l'altro vorrei chiedere a Leonardo Manera, è un dramma, perché adesso come fai? Cos'è che dici? Critici liberi e uguali. Allora, no, e questo sarà veramente un problema. No, ma voi non avete capito che loro si sono fusi in liberi e uguali, ma le singole entità restano, perché tra poco quindi si divideranno di nuovo. Quindi, non è... quindi va bene sempre critico MDP. MDP. Quindi, no, io lo terrei poi comunque, cioè, a futura memoria, critico MDP anche dovesse sparire. Certo. Oh, ma ditemi voi se non ho capito male, così, no? Si sono fuse queste entità, ma mantengono la propria identità. Hanno le singole identità, però in realtà adesso si presentano insieme come liberi o uguali. Adesso Veronica ti può tenere una dotta però spiegazione di un quarto d'ora. Allora, io abbocco come un pesce all'amo, per cui se cominciate a chiedermelo io poi ve lo dico, capito? Se, a domanda le risponde. Prime 9 pagine che ti hanno tanto infastidito erano per me succulente. Oggi stamattina il Corriere della Sera dedica le prime 9 pagine a politica di fiamme, fiammette, liberi e belli, nord, sud, Renzi, Renzini. Liberi e belli apprezzeranno, farà piacere ai giovanotti. So. Liberi e belli, vecchio slogan dello shampoo era liberi, esatto, e belli, vi ricordate? E come no. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno Milan. Oh. Che dire, inguardabili. Siete inguardabili. Ce l'ha con Manera? Con chi ce l'hai? No, mi auguro non con me. No voi. Abbiamo capito. Abbiamo già capito. Ha perso tempo per questo, per dirci no, questo. Perché io sono la mamma sannita, per cui come Benevento, io sono irpino di origine, quindi la rivalità. Ottimo. Avevo puntato sui 0 punti del Benevento, però voi avete rovinato la festa. Ha puntato in che senso? Cioè ha puntato soldi? Sì, no soldi, nel senso sul 0 punti della classifica del Benevento, insomma. Però voi avete rovinato tutto. Ma come quello? Bel modo per star vicino ai conterranei, però da Sannita punta sugli 0 punti del Benevento, no? Complimenti. C'è una rivalità veramente. Ah, perché lei è alpino. Per cui è come Inter Milan, Lazio Roma, Pisa e Livorno, sì, certo. Avete portato insomma Brignoli, che assomiglia più al nome di una stazione ligure, più Brignoli da Trescore Balneario in provincia di Bergamo. Sarà felice la nostra amica Aurora. Ci vediamo stasera Rossa alla stazione di Brignoli. Esatto. Ho avuto una fidanzata che abitava vicino a Genova, Brignoli. Finisce la prima ora dei funamboli, ci sentiamo tra poco. Donna, hai un marito o un fidanzato ipocondriaco che teme in modo eccessivo le malattie e ogni giorno si misura la febbre? Allora regalagli il termometro Bellugi, il termometro elettronico che anche di fronte a una febbre da cavallo segna sempre 36 e tranquillizza l'ipocondriaco. Termometro Bellugi è il termometro falso che migliora la vita di coppia. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. I funamboli. Però e Brignoli è pure proprietà della Juve. Oh Mila, buongiorno. Certo che passare da Giannino alla Veronica dà un bel colpo di culo, eh? Ciao Vero, ma a te non ti serve niente sicuramente. Allora la seconda ora dei Funamboli. Salutiamo anche il nostro mitico Oscar Giannino. I toscani sono i più diretti quando devono secondo dire. Secondo me cose. È bello Giannino, però. Ma poi si fanno capire, insomma, ecco. Allora... allora è vero, c'è anche questa cosa che Brignoli è proprietà della Juve, giusto? Questa così. Però temo che me la dobbiate spiegare, perché va bene che il giocatore è studio, di proprietà però... della Juve, cioè è stato ceduto in prestito al Benevento. Cioè, quindi è beffa delle beffe. Ci ha segnato si fa anche questo scherzetto, cioè ogni tanto si presta un giocatore, tipo a me gira così, ne presto uno? Sì, ci sono i prestiti. Vabbè, insomma, dai, adesso non affastellare troppe cose di calcio nel tuo cervello. State sennò... sempre a dirgli male alla Juve, invece è generosa. È generosa, ti ringraziamo. Non so bene che voglio, dopo telefono mi faccio spiegare un attimo, perché anche devo dire Leonardo che Veronica ha fatto la battuta dell'anno sul calcio. L'ho sentita. Inconsapevole. Stiamo detto... parlando di Milan, non di calcio. Esatto. Che andava perfetta così. Però poi è andata avanti dicendo, cioè nel senso parliamo soprattutto delle partite. No, parliamo di Milan, quest'anno parliamo di calcio e non del Milan. È fantastica. No, era il contrario, avrei anche sbagliato. La cosa preoccupante è che stiamo prendendo il posto dell'Inter di qualche anno fa sulle battute a ripetizione, insomma, stiamo diventando quel tipo di squadra. E invece quest'Inter mi pare vada bene. Vabbè, insomma, no, tutti convocati, siete qui, 800 24 00 24, c'è Pardo adesso, Carrogenta, che ne pensi? Fare un programma di calcio con me è il massimo che si possa veramente anelare, no? No, ma è stupenda questa cosa, siamo ormai tutti convocati. Questo è il programma. Potrei fare un programma che è il calcio spiegato a Veronica Gentili. Questo sarebbe bello. E io vi faccio le obiezioni, le domande. No, tra l'altro vogliamo invitare tutti gli ascoltatori. Stiamo per mettere a punto, almeno Leonardo ha dato questa idea, di fare una nuova rubrica, che è la rubrica La polemica inutile. Sterile. La polemica sterile. Polemiche insomma. Sterili si polemiche chiamerebbe. Polemiche sterili. Cioè, polemiche che non sortiranno nessun effetto, che vengono esposte. Politiche. Di qualsiasi tipo. Tipo... lui per esempio ne fa una tutti i giorni sulle scale mobili, ecco. Ne è l'esempio perfetto. Allora, cari ascoltatori, avete una polemica sterile da volere proporre? Sterile nel senso che non sortirà nessun effetto. Ma sì, è anche fastidiosa. Che sia sterile prima, sì. Mi raccomando, sterilizzate la polemica e poi ci fate sapere. No, deve essere anche una cosa che ci crea un po' di fastidio, talvolta anche imbarazzo, non c'è problema. Allora, se avete una polemica sterile, ma che voi sentite come una polemica invece da portare avanti qualcosa, scriveteci. Qui però scusa, mi stai dando delle indicazioni contraddittorie, perdonami. Devono evidenziare il fatto che li irrita perché è sterile, quindi dici che polemica inutile. Diciamo, sarà sterile per noi, per loro invece sarà vissuta come una polemica importante ma priva di risultati. Cioè uno polemizza con una cosa che non potrà cambiare fondamentalmente. Ecco, esatto. Quando io polemizzo per la ressa che c'è sulle scale mobili, però questa cosa non cambierà mai. Questo senso sterile. Ma anche quindi i calci il disappunto perché ci si rende conto che è una battaglia contro i mulini a vento. Esatto. Avete una polemica sterile, scriveteci a funamboli@radio24.it, oppure, e anche oggi non abbiamo rimediato nulla finora, a Verò che te serve è sempre Manu, qua. Ma questa cosa io non ho capito, il piatto piange, eh? Oggi poi andiamo però... verso Natale, io volevo scrivere una letterina agli ascoltatori. Ma uno ti ha offerto un caffè, adesso non è il massimo dell'offerta. No, vabbè, io intanto, può... no, però... io posso tranquillamente accettare, però dice allora, però il caffè non lo vedo io. Va bene. Comunque, se vedi, per esempio, un ascoltatore, la mia battaglia persa è togliere la patente dopo i 65 anni. Ecco questa è una polemica sterile. È interessante, Sam, scrivici a funamboli@radio24.it se vuoi intervenire e vuoi dire la tua polemica sterile. Su togliere la patente dopo i 65 anni è la prima, oppure le monetine per i carrelli, vedi che arrivano, dai, scriveteci, noi vi chiamiamo in onda già subito, guarda, facciamo una bella sigla, stavolta la facciamo bene. Ma scusami, la tua di polemica sterile qual è? Devo pensarci adesso, intanto andiamo al funambolo del giorno, intanto prometto ci penso. Il funambolo del giorno. Nome: Carmine. Cognome: Bonino. Età: 72 anni. Poliglotta autodidatta, conosce 6 lingue, tra cui il celtico. Il celtico. Vabbè, Carmine Bonino, buongiorno. Uno buongiorno che, lei, che buongiorno. Vista l'età non avrebbe già la patente, secondo la polemica sterile. Quando ero consigliere comunale ho fatto una proposta che al compimento dei 65 anni si potesse guidare la macchina 0-1 cosa si vuole. è passata. Non ho capito se, come si può guidare la macchina dopo 65 anni? Al compimento del 65esimo anno, sì, chiunque può guidare, non c'è più limite Euro 3, 4, 0, 1, si può guidare qualsiasi tipo di macchina. Bella questa, vedi? Perché a quell'età lì di solito le persone non cambiano più la macchina. E allora io ho fatto questa polemica sterile. Passata io a Savigliano, se i vigili ti fermano su Euro 0, per dire 1, ti chiedono... tu fai vedere la carta d'identità che hai compiuto 65 anni e puoi guidare qualsiasi tipo. Quindi, di... Quindi libertà di inquinare oltre una certa età, diciamo. Mi scusi, ma signor Bonino, questa polemica l'ha fatta in celtico? No, tra l'altro, perché noi l'abbiamo chiamata per altri motivi. Io ho studiato un po' il celtico, ma il celtico è una lingua morta. Dopo un po' ti stufi, perché non la parli con nessuno. Io ho studiato prima di tutto il tedesco, poi l'olandese che assomiglia al tedesco, poi ho studiato il danese, però lì ci sono, come dire, vanno a le lingue vanno a gruppi, cioè il gruppo latino, spagnolo, francese, italiano e rumeno, poi c'è il gruppo anglosassone che è tedesco e olandese, fiammingo, vabbè. Sì. Fiammingo e olandese poi. E poi c'è il gruppo scandinavo. Come le è venuto in mente di mettersi a studiare tutte queste lingue? Cioè uno si alza una mattina e si mette a studiare il danese. Carmine, aspetti, signor Carmine, si fermi. Allora, facciamo un gioco che è semplice. Faccia finire la domanda e poi inizi la risposta. Prego. Allora, come le è venuto in mente di mettersi a studiare tutte queste lingue, tra cui il danese? Ma perché io sono un tipo curioso, la curiosità è la prima l'accorgità, l'intelligenza nasce dalla curiosità, senza curiosità non c'è intelligenza e si parte dalla curiosità, io mi sono fermato lì alla curiosità, poi la mia intelligenza si apre. Però essendo curioso, poi io dicevo sempre, uno più lingue sa, più amici ha. Ma poi è un gioco, perché se lei ne conosce una per, se lei ne conosce una per gruppo, vive di rendita. Sì. Faccio un esempio, in tedesco noi siamo, si dice wir sind. In olandese dice wij zijn, sono gruppi, sono parenti. Sì, sono chiaro, no, ma è ovvio. Intanto non ci ha ancora detto le sei lingue che sa, perché ne ho spuntate tre o quattro. Ho studiato il tedesco, l'olandese, lo svedese, il finlandese, che poi è ancora un altro ceppo, è solo al mondo, non si aiuta con nessuno, l'ungherese, il russo, un po' il polacco, il celtico. E tutto questo è aumentato il numero dei suoi contatti, delle sue amicizie, o comunque è rimasto come prima, anche insomma, abbastanza solo? No, questo bisogna essere predisposti al dialogo, all'amicizia, non puoi essere introverso e studiare le lingue, se le studi sei obbligato a parlarle, tutto lì. Certo. Ma a che livello le sa adesso, sia sincero però, cioè se le fanno un esame in ungherese? Com'è? Vede che se non fa finire la domanda poi ci accavagliamo. Se fa un esame in ungherese, come va? Guardi, io l'ho studiato, però poi le cose si dimenticano, perché non parla con nessuno. Ma noi come facciamo a essere sicuri che lei non sia mitomane e avere degli attestati che parla tutte queste lingue? Ma gli attestati, io ero già stato intervistato tempo fa da una radio, radio qui. Io, se viene a casa mia, io ho una stanza piena di corsi di lingue, io il giapponese, avevo l'ebraico, l'arabo, poi parlarli dipende dalla frequenza con cui lei parla, per esempio il giapponese, io a Savigliano, con chi lo parlo? E quello è un po' un problema, dimentichi. Sì, poi se cominci pian pianino, un giorno, due. Allora, c'erano un giorno, gli amici di Penna, gli amici di Penna. Sai una bella scrive? Amicizia epistolare in celtico. A me dispiace. Qualcuno che faccia lo stesso, per esempio a Tokyo, e si sia messo a studiare il celtico, perché no? A me dispiace perché emerge anche un dramma umano di questa persona che passa ore, mesi, anni della propria vita a studiare lingue, non le parla con nessuno e si consuma in un'amara solitudine senza possibilità d'uscita. Solitudine. Grande amarezza. Io ho altri interessi anche, io sono in politica, ho fatto mille, quando ero consigliere comunale della mia città ho fatto mille interrogazioni, ho inaugurato i giardini, ecco, io sono per la prima volta. Non faccio mai una cosa che l'ha già fatta un altro, perché ho studiato l'olandese, cosa serve? Perché vivevo di rendita. Cosa serve? Ma andare in Olanda e farsi capire. Ma poi lei ha detto che inaugura giardini, ha inaugurato giardini. No, le piace, non è che si fa una piazza in una città tutti i giorni, una via. Allora rimango, sì, ho anche inaugurato vie. È stato consigliere comunale a Savigliano. Va bene, signor Carmine Bonino, noi la ringraziamo. La prossima lingua, Veronica, se vuoi. E io adesso no, poi devo andare anche lì a casa del signor Carmine a vedere. Un corso gratuito di olandese ti possiamo offrire, che però, che te serve? Un corso gratuito di olandese. Dici l'olandese tra danese, le varie? Finlandese. Il danese un po' fa figo, Fa figo, vabbè. Islandese, che... così va ai mondiali con l'Islanda. No, sai adesso il calcio da sai che l'Islanda va ai mondiali e noi no. Mi è stato detto, se anche questa cosa del ripescaggio, che c'era una depressione collettiva, che non siamo nemmeno stati ripescati, ma era sì, così? Certo, ma non siamo ripescati. L'Islanda, peraltro, è ormai una realtà calcistica in Europa e nel mondo. E quindi vanno ai mondiali loro, noi no. Vedi, guarda come mi guarda. Dai, per cercare di carpire qualche reazione, qualche mi commenti che non c'è sei niente. Sei più fredda di un islandese. Andiamo al traffico. Gelo proprio, improvvisamente. Andiamo al traffico. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta i funamboli. Io voglio il termometro Bellugi. Il termometro Bellugi va bene anche per le mamme che hanno quei figli che non vogliono andare a scuola, che dicono che deve la febbre. Tanto va Gattuso al largo che ci lascia due puntini. Ciao Alessandro! Allora signore, il termometro Bellugi. Vedo che va fortissimo. Che cos'è il termometro Bellugi? È un termometro che segna sempre 36, così se ci sono persone ipocondriache, le donne si lamentano sempre di noi uomini che ci lamentiamo se abbiamo 36. Allora facciamo questo termometro Bellugi, fatto, e anche se hai la febbre a 40 segna sempre 36, così ti rincuora, diciamo, e tu puoi stare più secondo tranquillo. Secondo me le donne lo compreranno tutte per Natale. Termometro Bellugi. Ma vedi che reagiscono tutti, perché è dicembre, tutti con l'influenza e tutti vogliono un termometro Bellugi. Signori, è un trionfo. Per Natale. È un trionfo. Al 349-238-6666 arrivano centinaia di polemiche sterili. Per esempio, Romagnoli non andava espulso. Ieri è stato espulso nel Milan. Oppure chi? Fare Romagnoli. Vabbè, lascia fare. Fare dell'Italia uno stato laico. Oppure la polemica sterile con l'amorosa, perché l'amore finisce sempre e comunque. Lo scrive anche l'ascoltatore. Perché l'amore finisce sempre e comunque. Polemica sterile, come evitare che i genitori parcheggino di fronte alla scuola in mezzo alla strada in curva coperta quando il parcheggio non c'è, devono portare. Ah, questa la condivido. Sui parcheggi dei genitori davanti all'uscita delle scuole è una polemica sterile assolutamente condivisibile, perché c'è sempre quello che parcheggia bene che viene bloccato da quello che invece parcheggia in mezzo alla strada. Quindi se tu ritiri tuo figlio prima degli altri, mamma devi comunque mia. Aspettare. Senti che polemico sterile. Ma la portata proprio assoluta della polemica sterile, cioè possiamo addentrarci anche ai massimi sistemi, alla filosofia o dobbiamo rimanere sulle cose anche alla filosofia, lo stato laico è una bella polemica sterile. Senti per esempio gli altri ascoltatori. Davide da Pisa, buongiorno, ci ha chiamato. Davide. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, la mia polemica sterile, che poi sterile non sarebbe, sarebbe anzi sostanziale. Vediamo, lo stabiliamo noi. Riguarda le elezioni in Sicilia. Dopo le elezioni in Sicilia è venuto fuori di tutto. Hanno votato interi reparti geriatrici, voti di scambio, corruzione, di tutto. Però sembra che... Io dico in un paese normale, in un condominio normale, verrebbero annullate. Questa non è sterile, non è sterile, se è vero, se è accertato. Io sono d'accordo, quella non dovrebbe essere sterile. Resterà però sterile. Perché la situazione resterà comunque quella, quindi è sterile perché non produce effetti in questo modo. Va bene, Davide, diciamo che ci stiamo avvicinando a quello che il termometro della sterilità che dice lì? Termometro Bellucci? Allora, il termometro Bellucci 36. Della sterilità è 36, quindi. Io dico che purtroppo la situazione non cambierà, quindi sono a favore della sterilità della polemica in questo caso. Sentiamo grazie Davide da Pisa, Vittorio da Ferrara, buongiorno. Buongiorno e grazie della vostra ospitalità. Sì, l'argomento stesso che vi voglio così dedicare a voi e agli altri ascoltatori è la polemica esterica delle amministrazioni con il cittadino. Sterile! No. E le polemiche sterile di fronte ai cittadini è questa. Adesso ve ne racconto uno. Io così. Esterica, mi sa. Pensate un po', un cittadino come me che ho 65 anni, sono stato messo sulla strada, dopodiché mio padre nel 59 aveva acquisito gli appartamenti popolari, che c'era un patto di futura vendita, si pagava un bollettino dal quale veniva decurtato una percentuale, dopo 20 anni l'appartamento era di proprietà. Questa non è una polemica sterile, è un problema che lei ha, insomma, è una cosa un po' diversa. Era al capo dello Stato, mi scusi un attimo, fa una lettera all'amministrazione e all'intendente di finanza e tutto quanto viene nascosto perché naturalmente non deve essere pubblicato alla gente. Guardate che questo problema è un problema nazionale delle case popolari. Si sono intascati i quattrini, poi gli hanno requisito le case. Per quanto uno possa sforzarsi con gli avvocati e con tutto, diventa una polemica sterile, perché io passo da un patto sterile, cioè praticamente non sono ascoltato. Beh, insomma, in un certo senso, nell'amarezza del dire contro in questa battaglia burocratica, dice non sono ascoltato e quindi è polemica sterile. Qui stanno portando polemiche sterili già di livello più alto, polemiche che dovrebbero avere un senso, invece purtroppo restano inascoltate. Non è tipo la scala mobile per di Renato, esempio, capito? Esatto, Irzak si rifà vivo, Irzak da Sant'Eramo, adesso lo mettiamo in contatto con Anacleto, così insomma sono i nostri due fedeli ascoltatori. Comunque ci sono degli ascoltatori che mandano un messaggio chiedendo una segreteria telefonica per il telefono fisso, se no non possono chiamare. Adesso la pronteremo, ce l'hanno rubata quelli di 24 mattino. Adesso. Questa è una polemica sterile. Questa è una polemica sterile. No, dite voi che è sterile, io te lo becco la polemica sterile, eh? Per esempio. Adesso vedo che posso fare qui. Una polemica sterile, secondo Irzak, è avverò che te serve, visto che non rimedia mai nulla, e quindi è una polemica sterile. Allora, non è una polemica, quella è una rubrica. Non è una polemica, è una richiesta sterile, ma vorrei sapere, vogliamo lasciarla sterile o vogliamo finalmente renderla fertile questa richiesta? Per esempio Valeria, e non è una polemica, scrive: Leonardo sei un analfabeta dei sentimenti, e questo un po' è vero, è freddo, perché? Atarassico. Perché analfabeta dei sentimenti? Chi me lo dice questo? Valeria, mi dispiace che tu mi consideri ma così. Ma perché l'amore finisce sempre comunque? Ma sei, dai, sei io vorrei dimostrare personalmente a Valeria che non è così. No, Valeria magari non ne ha bisogno. Malten in colse, perché adesso viene a casa Leonardo, capito? C'è già Giambattista da Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Che ci dice Giambattista? Allora, volevo dire questo. Sapere qual è la temperatura del posto dove si abita è molto semplice. Se si ha un termometro, si dà un'occhiata e si legge. Quando io voglio sapere la temperatura, non di Roma dove abito, ma per esempio di Genova da cui provengo, e prendo il televideo, e guardo 704 e c'è tutta la serie. Quindi vuol fare una polemica contro, vuol fare una polemica. No, arrivo al punto. Quasi sempre per tutte queste notizie qui, per molte delle città che dovrebbero dare cose, c'è scritto dato non disponibile. Ed è amministrato dall'aeronautica militare questo servizio. Vedete che hanno difficoltà divisive che non dovrebbero avere. E dice, vuol fare questa polemica, com'è possibile che su alcuni che mettono a posto questo televideo? mettono a posto il televideo. Questa è una polemica. È un po'. Vabbè. Leonardo, tu che ci hai messo in questo guaio? È una polemica sterile, anche perché non capisco perché gli interessi vedere le temperature di tutte le città d'Italia. Insomma, non lo so. Vuole appassionato sapere. Vuole saperlo. Di temperature. Non può saperlo. Prende il termometro Bellugi, che dà la stessa temperatura in tutta Italia. Fai anche l'avvocato d'ufficio del televideo, tu, Leo? Sì. Non lo so, non lo so. Comunque, alle 10:28 minuti i nostri ascoltatori hanno capito abbastanza, insomma, quello che vogliamo. Se volete ancora scriverci le vostre polemiche sterili, noi vi possiamo anche chiamare, possiamo anche fare una rubrica, Veronica, oppure no, se non ti piace. Contraddizione. Beh, sono abbastanza perplessa. Mi sembra che ancora non abbiamo preso la quadra di questa sterilità. Vabbè, ma siamo partiti da poco adesso. Vediamo, come evolve. Si susseguono le vicende, perché per ora siamo tutti un po' confusi. Per esempio, poi sono in attesa della tua di polemica per trovare la retta via. Ma non forse adesso ci penso due la borsa. Stefano dice: una polemica sterile, evitare che si parli al cellulare alla guida, e questa è una battaglia utile in realtà, ma ecco, quella è sterile o no? Teoricamente è sterile perché non produce effetti. Sono polemiche sterili le lamentele che non producono effetti, che ok, così. Però teoricamente qui ti sequestrano la patente, dovrebbero. E se ti beccano, sì, però. Quindi La borsa. Ecco, una polemica sterile, per esempio, è quella di aspettarsi dagli uomini, in quanto esseri maschi, che siano capaci di fare due cose contemporaneamente. Ecco. E le donne che con rinnovato stupore gli dicono: ma è possibile che non riesci a fare due cose insieme? Sei uomo. Quella è una polemica sterile. Oppure, ecco, l'ho trovata. Io che me la prendo sempre, come dici tu, con le prime pagine dei giornali dedicate alla politica. Quella è una polemica sterilissima. Quella è la polemica sterile. Quella è proprio la polemica sterile. Tu che ogni mattina con rinnovato stupore, come si dice, mi mandi il messaggino dicendo: hai visto anche stamattina? E uno dice: e pure borbottando come un vecchio, tu mi dovresti vedere qui, ma no. Però stamattina l'unico lato positivo è che mi hai scritto almeno: dai, è lunedì, è stato un weekend difficile. Ti vedevi dall'alto, capito? Sì, dice: adesso ti pare, devo sentire anche grasso, perché la fiamma del coso, ma se me ne frega a me adesso. Ecco, ancora 9 pagine. Quella è la mia polemica sterile, quasi tutte quotidiana. Le mattine, pensate che allegria prima di cominciare il programma, pensate come mi diverto la io. Borsa. I funamboli. Allora, la nostra nuova rubrica polemica sterile. Adesso Veronica c'è. Scusate. È lunedì. Leonardo sta preparando una sorta di promo anche di questa polemica sterile. Addirittura? Se vuoi la facciamo subito, lo diciamo intanto in diretta. Vai. Avete lamentele inutili, problemi che non troveranno mai una soluzione, fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticarie ed effetti collaterali sulla vostra pelle? Allora fate la vostra polemica sterile e chiamateci all'800 24 00 24. Eccolo qua. Ma le polemiche sterili fanno bene, secondo voi, tipo alla pelle? Non lo so. No, producono un fastidio generalizzato e continuo, ma che non troverà mai soddisfazione in nessun però modo. Però non c'è già una catarsi insita solo nel polemizzare? Un po' sì. Un po' sì. C'è Francesco che ci chiama da Bari, buongiorno. Buongiorno. Prima della polemica vi faccio i miei complimenti per quanto riguarda l'intelligenza e l'eleganza con cui conducete questa trasmissione. Ma che gentilezza, veramente. Ma l'ha detto in senso ironico, ci stavo prendendo in giro. Era una polemica sterile. Assolutamente no. Vai Francesco, Adesso passiamo alla polemica. Oh, adesso polemizziamo. Poiché ritengo che il nostro paese, Italia, sia ormai un paese incartato e abitato su se stesso per come viene governato, ritengo che l'unica via di uscita sia la perdita della sovranità nazionale. Mi riferisco alla Federazione degli Stati Uniti d'Europa. Chi mettiamo a capo di questa federazione? La Merkel? Probabilmente darei anche le chiavi di casa alla Merkel. Oh, siamo in due. Bravo Francesco. Siamo in due a fare questa polemica. Poi però ragazzi, si rispettano le regole. Se date le chiavi di casa alla Merkel, vi voglio vedere. Certo, è quello, lo si fa per quello. Lo si fa perché almeno ci salviamo con qualcuno che ci dice vorresti, delle regole da rispettare. Vorresti dare i tuoi figli alla Merkel? Non è che proprio le chiavi che ci entra in casa singolarmente. Vedere Mattia dopo con la Merkel come si comporta. Francesco, siamo in due a fare questa polemica. È sterile, Leonardo, questa polemica? È un po' sterile, anche perché per esempio la Merkel ha fatto entrare tanti turchi e loro poi si ritrovano in casa tutti questi turchi, gli italiani. Mamma di tu, anche questa, tu rispondi a una polemica sterile. Con una polemica sterile. Mamma di turchi, però c'è anche un messaggio che dice... come Renzi, che dopo 365 giorni non si è ancora ritirato dalla politica, sì, come aveva garantito, invece inquina le serate televisive un giorno sì e l'altro pure. È sterile, polemica sterile, è questa è sterile, sì, senz'altro è sterile. Enzo da Torino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Sì. E io vi ascolto sempre, complimenti per la trasmissione. Sì. Il mio è un intervento in polemica con Leonardo Manera. Oh. Oh. Lui diceva, ecco, lui diceva la scorsa settimana che l'amore dura 3 anni. Sì. Allora, io non sono affatto d'accordo, perché secondo me dura meno. Massimo 18 mesi. Ah. Lo sapevo che qui c'era una un'opinione sovversiva. Perché lei ha avuto esperienze di questo tipo, insomma, non ha mai avuto amore. Perché neanche 2 anni, perché 18 mesi, cioè un anno e mezzo? Cosa allora, succede dopo 18 mesi? L'amore, quello adolescenziale, è legato alla passione. La passione, dopo 18 mesi, incomincia la fase discendente. Ho capito, ma lei non mi sembra un adolescente adesso. No, io l'ho sperimentato 2 volte nella mia vita. Sì. E quindi parlo capito, ma l'amore io adolescenziale. Io mi auguro che lei adesso sia single, perché sennò la sua signora adesso la riempie di botte. Bisognerebbe dare una spiegazione scientifica, che comunque c'è. Ma guardi, ascolti. Sì. Ascolto. Io sono single, ho 66 anni. Ho apprezzato moltissimo un bellissimo film francese, molto divertente, che è uscito 2 o 3 anni fa nelle sale. L'amore dura 3 anni. Esatto. Sì. Ecco, l'ho visto, era bellissimo. Però, il libro Enzo, era anche bello. Sì, però Enzo, la questione è che lei non è un adolescente, questo è un po'. Ma lui il ti problema. Sta dicendo che precedentemente gli amori che ha avuto sono durati così. L'amore insomma. Adolescenziale. Ma sapete perché dura 3 anni? Perché all'inizio gli ormoni annullano la funzione della corteccia cerebrale, che è quella, diciamo, che è predisposta alla razionalità. Quando poi la corteccia riprende il suo ruolo, tu cominci a vedere l'altra persona col distacco dell'obiettivo. Attività, vedi i suoi difetti e alla fine inevitabilmente ti lasci. Io vorrei che tu ridicessi la parola topica. Aspetta, Leonardo, cerebrale, qual è no, corteccia, cosa si produce che rende l'amore amore finché ossitocina e dopamina. L'ossitocina è proprio bella. Va bene, ma è il momento di abbandonare per un attimo le polemiche sterili, per invece abbracciare un'altra nostra grande rubrica, il nostro grande successo, che è il Defurbizziamoci. Defurbizziamoci! Perché oggi c'è Angelo che ci ha scritto una cosa, secondo me, straordinaria. Angelo, buongiorno. Ah, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, Angelo, che hai combinato nella che vita? Che combinasti, Angelo? Niente. È svenuto. Angelo. La reazione è stata terribile. Pessima. Di fronte a questa doppia fila di domande è crollato. Angelo. Spariamo una sigla a caso. Angelo, vediamo un po' se ci sente e se riusciamo a recuperarlo, altrimenti lo dobbiamo abbandonare. Chissà se Angelo c'è. Non abbiamo lo so. Perduto vediamo. Angelo. Angelo, buongiorno. No. Però allora, lo facciamo per interposta persona. Tu sai cosa ha fatto Angelo? Io lo so cosa ha fatto. Lei è Angelo, d'altronde. Prego, Angelo. Allora, la mia furbata risale circa 30 anni fa ormai, quando Strano. Frequentavo il liceo e c'erano le gare campestri ogni anno tra le scuole della città di Bergamo. E un anno sono andato anch'io, non ero molto atletico, però insomma andiamo anche io, vado anch'io. E quell'anno il percorso prevedeva oltre il prato, andavamo dietro una tribuna, facevamo diversi giri eccetera eccetera finché poi si arrivava al traguardo. E io, diciamo, a un certo punto, passando dietro la tribuna, ho detto: ma perché continuare a fare questi giri? Mi sono fermato, mi sono nascosto. E poi quando sono partiti all'ultimo giro, sono saltato fuori tutto bello fresco e sono arrivato al traguardo non per primo, cioè sono arrivato tra i primi 10. Bravo, ma non c'era uno straccio di controllo? No, tra l'altro senti la vergogna, cioè non è che è uscito per primo, dai, almeno settimo, ottavo, perché proprio per fatto con moderazione. Sì, ma poi dopo questo ma qualificato alle regionali, poi sono andato anche alle regionali e poi il professore mi ha dato anche 10 in ginnastica, ha detto ma un talento così, è stato il nome alla scuola, certo, senza una goccia di sudore. Sì, veramente. No, il problema le donne è... cadevano i miei piedi. Angelo, un atleta Angelo, così. Il vero dramma è questo: quando è stato selezionato ed è andato alle regionali e lì non poteva più fare il furbo, com'è andata alle regionali? Infatti, quando sono sceso dal pulmino, mi sono guardato in giro, ho guardato, c'erano degli spalti, invece era tutto prato, piatto, allora... piatto. Ho detto, sono spalti, devo correre. Perché Angelo eri pronto a infrattarti anche alle regionali? Certo. Voleva vincere le Olimpiadi, certo. Così. C'era lo spalto, andava bene anche le Olimpiadi. Cioè lui voleva vincere la medaglia d'oro tipo 3.000 siepi infrattandosi sotto un ostacolo. Angelo. Ma quindi no, come sei classificato? A me piace come sistema. Sì. Alle regionali. Come è andata alle regionali? Quanto è arrivato? 60esimo, una cosa già. Su 60. A nessuno è sorto il sospetto che ci fosse stata una qualificazione così bizzarra, no? No. Bravo, forse qualche compagno sì, però tra compagni poi alzavo il nome della scuola rispetto alle altre scuole. No, ma la cosa è, quando è sbucato, certo, fuori dalle tribune, tipo l'11esimo, il 12esimo, quelli dietro non hanno detto, ma questo ha truffato, no, nessuno se n'è accorto. Quindi. No, nessuno se n'è accorto, ma io non sapevo neanche di essere decimo, sono arrivato decimo per caso e mi sono quasi qualificato i primi 10. Il dramma adesso è che mia figlia, quando fa adesso inizia a fare le gare studentesche, gli domanda: papà, ma tu facevi le gare come ti piace? Allora per questo ho chiesto il vostro intervento di deforbizzarmi. È importante. Allora, come si chiama tua figlia? Prima che Delia. Sia troppo tardi. Come si chiama? Delia. Allora, Delia, papà Angelo da oggi è... defurbizzato. Basta. Però no, Delia, no, devi seguire anche tu l'esempio di papà. No. Nasconderti dietro a qualche spalto e arrivare tra i primi. Anche secondo me emulare il genitore è sempre importante, serve in una fase così iniziale di crescita. Quanti anni ha? 13. Adesso, dopo arriva il conflitto, adesso deve emulare il padre. No, assolutamente no. Malmen incolse a me a raccontare anche a mia figlia quando in prima elementare a volte scappavo da scuola, adesso me lo rimprovera, anche adesso alle medie dice: ma proprio tu papà che mi dici che anche tu scappavi da scuola adesso, vedi. Anche quindi... tu sei uno scienziato, Ma ho capito, ma si raccontano, ma come favole, si racconta quel giorno sono scappato da scuola, adesso vuol stare a casa dicendo ma se anche tu tanto non andavi a scuola, ma l'ho fatto 3 volte, Angelica. Ma se si fa tra marito e moglie o tra fidanzati che ci si rinfacciano le cose che uno racconta in un momento intimo di confidenza e poi uno dice proprio tu! Alessandro voleva farsi bello così mostrandosi un po'... Ma volevo raccontare una favola, sai, come Pinocchio sono scappato bella una volta questa da scuola. No, ti prego. Adesso è diventato volevi farti bello agli occhi di tua figlia, volevi far vedere come tu in realtà eri furbo. Ecco qua, vabbè, il traffico, i funamboli. Marco Tazzi da Roma, la faccio via la polemica, sterile. Ma quando va a cantare sta canzone, Eccola qua la polemica sterile. Per me, io ne ho un'altra, per esempio. L'altro giorno ci hanno scritto molte donne che non possono passare l'aspirapolvere finché non hanno finito di ascoltare i funamboli. E questa è un po' una polemica sterile, perché ci sono le cuffiette, ci sono. E poi comunque noi andiamo in onda lo stesso, no? Non è un po' sterile come polemica. No, è inutile che cerchi la mia approvazione con gli occhi, non avrai la mia approvazione. Mi sembra perché una, tu vuoi, una sciocchezzuola. Vuoi assolutamente conquistare tutte queste casalinghe che ci ascoltano. No, io penso che giustamente le signore hanno questo conflitto di interessi e non sanno bene come fare. In più con le cuffiette è scomodo, e comunque con le cuffiette l'aspirapolvere fa un rumore molesto lo stesso, non senti bene. La soluzione comunque è tenere la radio altissima e anche usare l'aspirapolvere, così i vicini di casa sono contenti. Anche perché questo aiuta i rapporti, ti fa stare bene, come dice qualcuno. Bene, avete bocciato la mia proposta, che era molto concreta, che era quella di urlare alla radio per farsi sentire. Non è vero, bene. L'abbiamo provata, timbrà. Dai, Leonardo. Io ho provato ad immaginare come potrebbe essere la mia vita e cosa potrei proporre e riportare l'Italia se nel 2030, per esempio, fossi presidente della Repubblica. Urca. Cittadine e cittadini italiani, buon anno dal Presidente della Repubblica del 2030. Voglio ringraziare i miei predecessori: Napolitano, Sergio Mattarella, Bruno Vespa, Vasco Rossi. 2030 stiamo parlando. Stasera sono qui per dire a tutti gli italiani che finalmente siamo entrati in un periodo di stabilità, nel senso che ci siamo stabilizzati su una crescita minima e ci siamo tranquillizzati. Inoltre stiamo per approvare una nuova legge elettorale, una legge elettorale che stimola i consumi. Infatti, per poter votare, invece del certificato elettorale, bisognerà presentare al seggio lo scontrino di un centro commerciale. Inoltre, per facilitare le operazioni di voto, i seggi verranno allestiti direttamente nei centri commerciali. L'iter della legge prosegue nonostante sia critico. MDP. Siamo a un passo anche da una nuova legge sulla immigrazione. D'ora in avanti in Italia potranno entrare tutti, a patto però di conoscere la storia d'Italia. Quindi a Lampedusa verrà fatto un test dove gli immigrati dovranno rispondere a domande su Garibaldi, Mazzini, Maria De Filippi e Tina Cipollari e cantare una canzone di Albano. Abbiamo finalmente abbandonato l'euro, siamo tornati alla cara vecchia lira e l'economia finalmente gira. Non importa se un chilo di pane costa 500.000 lire. La nostra moneta resta competitiva nei confronti di monete forti come il balboa panamense, la corna ceca o gli zloty polacchi. Il nostro esercito è quasi totalmente impegnato in missioni umanitarie, ovunque, nel mondo. In Italia sono rimasti solo 3 caporali e un sergente sofferente di sciatalgia. San Marino quindi sta pensando di invaderci. Ma noi resistiamo grazie all'eroica contrapposizione dei bagnini di Rimini. Però, cari amici italiani, dopo tanti anni di sofferenze abbiamo ottenuto notevoli successi in campo sociale. L'età pensionabile è stata ridotta a 87 anni. È stato risolto il problema dei rifiuti perché la gente non butta via niente, mangia anche il Tetra Pak. È stato risolto il problema di Venezia, che d'ora in avanti si chiamerà Atlantide. Grandi innovazioni anche nel mondo del calcio, dove si è deciso che i prossimi allenatori della nazionale saranno le ex veline e le ex letterine, poiché nessuno meglio di loro conosce i calciatori. Purtroppo, cari cittadini, a questi grandi cambiamenti nella società italiana ci sono alcune opposizioni. Silvio Berlusconi, Maurizio Costanzo, Pippo Baudo e i Pooh, mangiando cellule staminali crude preparate in un laboratorio segreto, sono ancora tutti vivi, ultracentenari, e vogliono riconquistare il potere e attaccare l'esercito italiano che non c'è. Ma noi continuiamo ad aver fiducia perché ci affidiamo a Dio, al nostro Allah, essendo il nostro già da alcuni anni diventato un paese musulmano, però globale, dove si prega guardando la Mecca, ma si continuano a consumare prodotti della tradizione italiana, come la Coca-Cola. Ma un giorno saremo ancora orgogliosi di essere italiani, quando vinceremo ancora i mondiali di calcio, grazie al nuovo allenatore Melissa Satta. Cittadine e cittadini italiani, buon giorno a tutti, sayonara, Allah Akbar! Beh, direi che è straordinario, mi sembra che anche con una chiusura trionfale abbastanza così. Sì, epica, devo l'inno dire. L'inno è sempre questo. L'inno è sempre bello. Tra l'altro viene sempre citato Mameli e mai il povero Michele Novaro, che è, non mi ricordo chi è autore dei testi e chi delle musiche. Esatto. Novaro, Michele Novaro. Non farci il nome Michele in bocca a te suona particolarmente bene, Leo. Ecco la mia polemica sterile. Francesco, il Presidente della Repubblica, mettiamo lì una persona comune, un operaio che capisce veramente i problemi. Questa più è una polemica più qualunquista che sterile, direi. No, più che sterile. Poi ce ne sono altre? Potremmo polemizzare anche con le lucine di Natale che compaiono a metà novembre, mettendo sul chi va là tutti quelli che magari sono intolleranti alle feste. Così. Esatto. Mi associo al grido di protesta delle donne sul fatto di non poter usare l'aspirapolvere durante la vostra trasmissione. È un problema anche per noi uomini, o almeno per me uomo, Roberto. Ma Roberto. Quindi Roberto passa l'aspirapolvere? Evidentemente. Per sfatare tutti i luoghi comuni. Io ho un'altra polemica sterile sul fatto che da qualche anno nelle case per Natale si sia diffusa l'usanza di fare sia il presepio che anche l'albero di Natale. Per un motivo, perché i bambini vogliono sia il presepe che l'albero di Natale, ma il fatto è che le devono fare sostanzialmente i genitori queste cose. Per esempio, nel presepio il bambino mette solo le statuine alla fine, ma tutta la seccatura di star lì, preparare, mettere il muschio, pulire, perché poi il muschio cade sempre per terra e tu devi occuparti di tutto, e il bambino arriva solo alla fine a mettere le statuine. Vive sempre quindi con grande... Quindi tu sostanzialmente vorresti mettere i bambini lì dall'inizio del presepe, vai allora, a comprare il muschio! Quando il bambino nasce, per piccolo prima cosa approfitta. Bisogna dire a Natale o si fa il presepe oppure l'albero, non tutte e due. È bello perché vive sempre con grande amore, serenità, passione, serenità. E poi è con il piacere di fare le cose insieme, di condividere questo momento. Io però non ricordo che ci sia mai stato un momento in cui si facesse una cosa o l'altra. Beh, una volta si faceva solo il presepe. Sì, un tempo sì. Prima che venisse il consumismo, la globalizzazione. Scandinavi che ci hanno portato l'albero. Comunque, scrive un'ascoltatrice: grande Leonardo, mi fai ridere tantissimo, solo che sarebbero cose che potrebbero realizzarsi. Questo sì. Allora, sull'inno del Benevento, non ho capito perché oggi parte infatti l'inno del Benevento. Non capivo cosa fosse questa. Si può, ci chiedono, si può ascoltare il podcast? Ma certo, abbiamo il podcast. Per forza, non abbiamo verificato come stiamo in classifica. Sul nostro sito di Radio24.it. Potete scaricare il podcast, ascoltare il podcast dei Funamboli. Io suggerisco di risentire la trasmissione anche qualora l'aveste già sentita, perché, certo, perché questo vi fa stare bene. Stare bene, deve fare cose che ti fa stare bene nella potete vita. Potete scriverci Funamboli. Se fai podcast non c'è aspirapolvere, quindi ecco. Funamboli chiocciola radio24.it. Chiamateci, seguiteci su Facebook, su Twitter. Questo ma quando c'è un'altra partita del Milan? Sabato, domenica, giovedì. Non nessuna prima Champions. Ma l'Europa League cosa l'abbiamo già vinta. Ah, Europa League. Ma come l'Europa League? È finito l'Europa League, il girone? No, secondo me ne manca una partita, ma siamo già passati. Vabbè, già sono passati? Sì, siamo già passati. Puntiamo. Ma quindi voi giocate proprio due squadre diverse, una per l'Europa League e l'altra per il campionato. Lascia fare. Questo, come tutti gli inni di calcio, è orrendo, ma con l'inno del Benevento e Brignoli vi lasciamo. A domani. Dentro Brignoli! Brignoli! Ha pareggiato Brignoli! Alla più forte, noi saremo stati.